Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Durante la dittatura comunista, i tedeschi dall'est sognavano di poter oltrepassare il muro non solo per concretizzare un desiderio di libertà, ma anche per avere libero accesso a quei prodotti occidentali che erano appannaggio solo di pochi eletti. Sulle pagine del Riformista, Tonia Mastrobuoni racconta una giornata nella DDR di 20 anni fa, pochi giorni prima del crollo del muro di Berlino. L'agenzia di stampa della Germania Est ADN fa sapere il 20 ottobre che ai cittadini rifugiati all'ambasciata della Repubblica Federale di Varsavia sarà concesso di espatriare in Occidente. Il portavoce del ministro degli affari esteri della DDR, Wolfgang Mayer, sottolinea che si tratta di una decisione presa per motivi umanitari, ma aggiunge: non è stata una decisione facile. Per Mayer, ora c'è bisogno di ogni singolo cittadino perché siamo fermamente intenzionati a indagare le ragioni per le quali così tanti ci stanno voltando le spalle. Il giorno prima, il quotidiano della gioventù socialista, la Junge Welt, ha pubblicato un calcolo del danno economico dell'inarrestabile fuga verso ovest dall'inizio dell'estate. Ogni 10.000 profughi significano per la già disastrosa situazione economica della DDR una perdita di 330 milioni di marchi. L'elenco delle ragioni per fuggire in Occidente è ovviamente lungo, ma uno fa particolarmente impressione in quelle settimane. «Voglio anche io lo yogurt Danone!» esclama un tedesco fuggito via Ungheria alla televisione tedesca. Da sempre, gli scaffali vuoti dei supermercati e dei negozi da Halle a Berlino, a Dresda, a Karl-Marx-Stadt e gli astrusi meccanismi di distribuzione dei prodotti della DDR catapultano i tedeschi verso ogni buco nel muro che consenta di allungare la mano verso prodotti diversi dalla Vita Cola, dalle Alu Chips, dai Krauti o i cetriolini dello Spreewald o dagli altri marchi tipici e non sempre di qualità eccelsa diffusi nel paese di Honecker. L'opportunità di accedere a prodotti diversi da quelli, sempre meno al passo coi tempi e forniti sempre più a singhiozzo, è concessa da sempre a pochi. Tanto che la scrittrice Monica Maron si spinse a definire la DDR una dittatura delle commesse e delle cameriere. Accanto ai bonzi della sede o ai privilegiati che possono sfruttare i negozi di delicatessen, commercio occidentale o speciale, si è diffusa da tempo la cultura della Bückware. Dal verbo bücken, piegarsi, e dal sostantivo ware, prodotto. Tradotto, un prodotto per piegarsi. Indica le merci rare o di qualità superiore, che appena giunte nei supermercati o nei negozi, vengono nascosti dalle commesse in fondo agli scaffali e tenuti in serbo per i clienti migliori, quelli che possono offrire favori in cambio. Una delle conseguenze più devastanti dell'economia pianificata della DDR, uno dei fattori che ne ha eroso maggiormente il consenso, è proprio il fatto che non si è riuscita mai in 40 anni a garantire ai suoi cittadini la fornitura regolare di beni, anche di prima necessità. Alla fine degli anni 50, uscita dall'emergenza post-bellica, la DDR aveva cominciato a distribuire regolarmente pane, latte, burro e formaggi o salumi poco sofisticati. Ma tutto il resto, a partire dai prodotti più elementari come uova, carne, soprattutto di manzo, prosciutto, carta igienica o caffè, ogni tanto spariva per lungo tempo dagli scaffali. Un'emergenza senza fine. Un giorno i supermercati erano pieni di mangime per gatti, ma mancavano i pannolini. Un altro, non c'era traccia di uova, ma i ripiani strabordavano di rasoi elettrici. Un fatto aggravato dalla propaganda degli anni 50, che aveva unilateralmente, ma pubblicamente, lanciato una competizione con la Germania Ovest e aveva promesso, entro il 1961, di superare i cugini occidentali in consumo pro capite di beni alimentari e in fornitura di elettrodomestici bianchi e marroni, dalla lavatrice al televisore. Un tentativo che fallì miseramente. Nei decenni successivi la situazione continuò a peggiorare. Negli anni 80 la DDR continuava a distribuire prodotti con tecnologia anni 60 e vestiti che erano cronicamente fuori moda. Nella distribuzione a macchia di leopardo poteva accadere che ci fosse la verdura in un supermercato, ma mancasse il contenitore o la busta di plastica perché il cliente la potesse portare via. Oltretutto, L'immagine del regime ne usciva sempre più devastata a causa del confronto continuo che i cittadini dell'Est, nonostante il muro, potevano fare con i prodotti dell'Ovest. Molte famiglie divise ricevevano pacchi dai parenti di Monaco o Amburgo, che non lasciavano dubbi sulla differenza nella scelta e nella qualità dei prodotti delle due patrie. Anche la televisione occidentale, guardata di nascosto, confermava l'impressione di aver preso il biglietto della lotteria sbagliato quando il paese era stato diviso in due. La cronica penuria di prodotti era l'unica cosa della quale i cittadini della DDR si potevano lamentare anche pubblicamente senza essere perseguitati. Anche perché era risaputo che era un problema che non riguardava l'elite del paese o chi possedeva Westmark, marchi della Germania dell'Ovest. Con le mattonelle blu, come venivano chiamate, nulla era inaccessibile. Il regime era consapevole che censurare il popolo quando si lamentava che al supermercato mancavano da settimana le mele era molto più pericoloso che punirlo quando si batteva per la libertà di stampa o di parola. Inoltre, la lamentela sugli scaffali vuoti o sui tempi di attesa biblici per ottenere un frigo o la Trabant era considerata e tollerata dalla SED anche come un'utile valvola di sfogo del popolo, ma provocò anche una serie di riflessi incondizionati collettivi nei tedeschi dell'Est che finirono per diventare altamente simbolici. Anzitutto, un oggetto tipico del paesaggio urbano dell'Est, dominato per il resto da un beige smorto, era la coloratissima borsa della spesa di plastica, spesso a fiorellini. E nelle borsette delle donne raramente mancava una busta di stoffa per gli acquisti improvvisi. Appena si scorgeva da qualche parte una fila, ci si accodava istintivamente, magari anche senza sapere cosa venisse distribuito. Un rasoio elettrico poteva essere totalmente inutile per una donna, ma diventava un'utile merce di scambio per altri prodotti introvabili. In 40 anni di DDR è sempre rimasto vivo e fiorente e diffusissimo un mercato grigio delle merci, anche per compensare i tempi mostruosamente lunghi di attesa per qualsiasi prodotto. Un altro riflesso tipico da scaffale cronicamente vuoto era la tendenza ai Hamsterkäufe, agli acquisti da criceto. Appena girava notizia su un possibile aumento di prezzi o una strettoia produttiva imminente su un determinato prodotto, i cittadini si precipitavano a farne scorte, a prescindere dai bisogni. Anche le dispense piene di tonno potevano trasformarsi in utile magazzino di scorta per baratti sul mercato grigio. Naturalmente, in questa disastrosa, cronica situazione esistevano delle merci simboliche, i sogni proibiti del cittadino medio della DDR, come la frutta tropicale e in particolare le banane. Quando cadde il muro, molti tedeschi dell'Ovest scuoterono la testa assistendo al vero e proprio assalto ai negozi e ai supermercati dei fratelli orientali. Mostrarono pochissima comprensione per la fame di prodotti che sembrava agitare quelle masse di cittadini dell'Est frustrati da decenni di scaffali vuoti. Cominciarono a chiamarli proprio così, banane. Uno degli episodi più emblematici dell'incomprensione dei Wessis, dei tedeschi dell'Ovest, nei confronti della febbre da supermercato degli Ossis, degli ex cittadini della DDR, fu vista da milioni di tedeschi in TV. Il 18 marzo del 1990, dopo che le prime elezioni libere della DDR erano state vinte dalla coalizione di centrodestra Allianz für Deutschland, capeggiata dalla CDU, l'esponente dei socialdemocratici Otto Schily, ex avvocato dei terroristi della RAF e futuro ministro di Schröder, fu interpellato per un commento. Per esprimere la sua delusione sull'andamento del voto nella DDR, si limitò a mostrare alle telecamere una banana. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Tonia Mastrobuoni, Voglio lo yogurt Danone, la spesa tra scaffali vuoti e mercato grigio, dalla Riformista del 20 ottobre. Letture di Radio 24. In tutte le democrazie è solo una piccola minoranza rumorosa che segue con interesse le vicende politiche, scrive Angelo Panebianco sul Corriere della Sera. Una minoranza che si può dividere in tre grandi tipologie umane: l'estremista, il fazioso e il pluralista. Viviamo in una fase, simile ad altre della nostra storia, di incanaglimento della lotta politica. Siamo immersi in un clima di guerra civile virtuale. Siamo, pur con i nostri difetti, una democrazia, ma rispettabili pensatori di altri paesi, aizzati da demagoghi nostrani, vengono a spiegarci che viviamo sotto una dittatura. Abbiamo un dibattito pubblico apertissimo, ma c'è chi racconta che la libertà di stampa è minacciata. Alcuni parlano dell'Italia, come se si trattasse dell'Iran o della Birmania. Abbiamo libere e regolari elezioni, ma una parte non esigua degli elettori dello schieramento sconfitto non riconosce la legittimità del governo in carica, ma la stessa cosa facevano certi elettori dell'attuale maggioranza quando governavano i loro avversari. È in questi momenti che conviene tornare ai fondamentali. Che cosa permette a una democrazia di sopravvivere? Di quali virtù o qualità deve essere dotata la cittadinanza democratica? La democrazia è un regime moderato. Ha bisogno che a guidare i governi siano sempre forze moderate, di destra o di sinistra, e che le componenti estremiste siano tenute a bada. Ma perché ciò accada, occorre che fra i cittadini prevalgano certi atteggiamenti anziché altri. Nelle democrazie, in tutte, la maggioranza dei cittadini ha interesse nullo, scarso o sporadico per la politica. È sempre una minoranza, magari consistente ma pur sempre minoranza, a seguire con continuità le vicende politiche. Sono gli atteggiamenti prevalenti in questa minoranza a dettare tono e qualità della democrazia. Sono tre i tipi umani che più frequentemente si incontrano in tale minoranza: l'estremista, il fazioso, il pluralista. Li indico nell'ordine che va dal meno al più compatibile con la democrazia. Gli estremisti veri e propri, così come qui li intendo, sono fortunatamente sempre pochi, anche se rumorosi e spesso pericolosi. La loro presenza dipende da certe caratteristiche della politica, dal fatto che la politica, più di qualunque altra attività umana, si presta ad essere il luogo in cui si possono scaricare le frustrazioni personali. Per l'estremista, la politica è una grande discarica nella quale egli getta la parte peggiore di sé. L'estremista è uno che odia. Odia se stesso in realtà, ma trasforma l'odio per se stesso in odio per il nemico politico. La politica, data la sua natura competitiva e conflittuale, si presta bene per questa operazione. Lo sventurato giovane che su Facebook si è chiesto perché nessuno abbia ancora ficcato una pallottola in testa a Berlusconi è una vittima del clima che gli estremisti alimentano. Per inciso, quel brutto incidente potrebbe essere la sua fortuna. Se non è uno stupido, rifletterà, capirà che un uomo è tale solo se pensa con la sua testa, se non si fa comandare o suggestionare dal clima dominante negli ambienti che frequenta. Poi c'è il fazioso. A differenza dell'estremista, il fazioso, come qui lo intendo, non è un caso psichiatrico. Però è spaventato dalle opinioni in contrasto con la sua. Nei mezzi di comunicazione cerca più conferme ai suoi pregiudizi che informazioni o dibattiti di idee. È rassicurato dall'idea che esista, in materia di politica, la verità, unica, chiara, indiscutibile, e che egli, essendo onesto e intelligente, la conosca. Per lui, quelli che non vogliono accettare la verità in cui egli crede sono disonesti o stupidi. Il fazioso teme lo stress che gli procurerebbe il riconoscimento che il mondo è davvero complesso e ambiguo. Ha bisogno di contare su un quadro di certezze. Di qua il bene, di là il male. Un grande economista, Joseph Schumpeter, diceva che spesso eccellenti persone, brave nel loro mestiere, sono in grado di parlare con competenza e maturità dei problemi della loro professione, ma regrediscono all'infanzia appena cominciano a parlare di politica. Il bene, il male, le fate e gli orchi, gli sceriffi col cappello bianco e i banditi col cappello nero. Il fazioso, essendo spesso tutt'altro che stupido, vive con patimento la sua contraddizione, la coesistenza in lui dell'orrore per le opinioni diverse dalla sua e del riconoscimento della necessità del pluralismo delle opinioni in una democrazia. C'è infine il pluralista. Accetta il fatto che il mondo sia complesso e, dunque, che non ci sia, sui fatti contingenti della politica, una verità acquisita per sempre. Accetta che il problema sia, ogni giorno, quello faticoso di impadronirsi, confrontando le opinioni e riflettendo sui fatti, di quel poco di precarissima verità che si riesce ad afferrare. Senza abdicare alle proprie convinzioni più profonde, non teme di ascoltare pareri diversi. Pensa che, se sono ben argomentati e presentati con garbo, possano anche arricchirlo. Quanto più nella minoranza che si interessa con continuità di politica prevale il tipo pluralista, tanto più la democrazia è salda e sicura. Non è questione di destra o sinistra, o attualmente di berlusconiani e anti-berlusconiani. Ci sono faziosi e pluralisti di ogni tendenza. Ad esempio, la differenza fra un fazioso anti-berlusconiano e un pluralista anti-berlusconiano è che per il primo Berlusconi è il nemico, mentre per il secondo è solo un avversario. C'è poi la questione dell'uovo e della gallina. Ci sono fasi in cui, entro la minoranza che segue la politica, I pluralisti si trovano in difficoltà e sembrano quasi soccombere di fronte alla prepotenza dei faziosi, sempre seguiti da un imbarazzante codazzo di estremisti. È difficile stabilire se in quei momenti i faziosi prevalgono perché aizzati dalle urla di furbi demagoghi o se invece i furbi demagoghi hanno successo a causa dell'esistenza di una folta pattuglia di faziosi. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Angelo Panebianco, Il fazioso e il pluralista, dal Corriere della Sera del 19 ottobre. Sulle pagine del Foglio, Annalena Benini traccia un profilo della nuova generazione di madri ansiose e iperprotettrici e di bimbi annoiati e lamentosi. Il bambino arrivava a scuola con la merenda già divisa in tanti minuscoli bocconi, per non rischiare di soffocare in classe, per non far stare in pensiero la mamma a casa. Il bambino a 6 anni non sapeva correre, perché era molto pericoloso, poteva cadere e sbucciarsi un ginocchio. La mamma è stata condannata per maltrattamenti, troppo amore, eccessiva protezione e il non trascurabile dettaglio che si rifiuta di far vedere il bambino al padre. Ma l'amore se ne frega dei tribunali e lei ha continuato a proteggere suo figlio dal raffreddore, dai virus, dai bambini prepotenti, dai giardini, dalle olive col nocciolo, dagli spifferi, dalle pallonate. È una nevrosi molto diffusa. I parchi sono pieni di mamme nel panico perché la bambina di 3 anni vorrebbe andare sullo scivolo. «No, amore, ti fai male!» «Vieni a mamma, non lo fare!» «Ti ho detto di no!» «Va bene, fallo, ma ti metto io seduta e poi ti tengo la manina!» «Spostatevi tutti!» Orrendi bambini altrui. «Giada sta per scendere!» «Oddio, lo vedi che si scivola!» Sullo scivolo si scivola. E il bello poi è salire in piedi al contrario, o almeno scivolare sdraiati. Ma i genitori impazziscono di paura. Anche i padri tatuati, ex avventurosi esploratori di spiagge lontane, anche le mamme che si sono molto divertite e poi hanno individuato il momento perfetto per avere un figlio, incrocio preciso di ascisse ordinate, viaggi, casa, amore, carriera, stanza della tata, adesso svengono di fronte a un'altalena senza chiusura di sicurezza, a una merendina non biologica, a un biberon non passato nello sterilizzatore e a un amichetto che dà le spinte. Genitori feroci con i bambini degli altri. Non ti avvicinare a Giacomo, l'hai già fatto piangere la settimana scorsa. E pronti a uccidere una mamma colpevole di non avere notato che quella sua pestifera bambina piccola aveva strappato la macchinina di mano al loro magnifico rampollo di 12 anni, umiliandolo. Genitori in crisi davanti a un cerotto, a una punizione o a una sberlina. Lo scrittore Javier Marías ha commentato la situazione in Spagna rivalutando il senso dello scappellotto e dell'autorità. Sembra che ogni nuova generazione di giovani sia sempre più suscettibile e sempre più pusillanime. E ogni nuova generazione di genitori sempre più disposta a proteggerle e a incoraggiare questa pusillanimità. Capricci, tirannie, pretese assurde, imbranataggine cosmica. Bambini che hanno paura di un gatto, di un cagnolino, di arrampicarsi su un albero e si rifiutano di fare una gara di corsa con i compagni di scuola perché potrebbero non vincere. Piccoli Buddha tutti d'oro, già annoiati, un po' depressi, cagionevoli, lagnosi, pronti a dare la colpa agli amichetti, alla maestra, ai professori, al capo, alla moglie, al complotto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Annalena Benini, Piccoli Buddha, dal Foglio del 14 ottobre.